Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci, benvenuti a Salva Danaio. Se c'è una certezza che abbiamo nel nostro programma è che sui mutui potremmo fare 10 puntate al mese e troveremo sempre notizie nuove pronte ad essere discusse e commentate. Capita anche questa settimana. La settimana scorsa abbiamo cercato di capire quali ripercussioni positive stanno avendo sulle rate i cali dell'Euribor e poi abbiamo cercato anche di capire, siamo ritornati di nuovo sul tema, come procedono i tentativi di rinegoziazione e di surroga, ora che le banche tra l'altro stanno pagando il pesantissimo scotto della crisi. Oggi due i temi che poniamo alla vostra attenzione. Intanto, entro fine novembre occorre decidere per coloro che sono in difficoltà con il rimborso della rata se aderire alla proposta di rinegoziazione del mutuo secondo i criteri stabiliti dalla convenzione ABI Ministero dell'Economia. E poi abbiamo un'altra notizia che invece è arrivata verso la fine della settimana scorsa, è arrivata dal Tribunale di Bari, il quale ha pronunciato una sentenza sui mutui che ha messo in discussione il cosiddetto piano di ammortamento alla francese. Qualche associazione dei consumatori, visto che tra l'altro questa è un'iniziativa giudiziaria che era proprio partita per un'iniziativa di una grande associazione dei consumatori, ovviamente si è già gridato al grande successo, si è parlato di una sentenza epocale. Noi in realtà oggi vorremmo capire che cosa stabilisce questa sentenza e cercare anche, per la verità, di non creare troppe aspettative per tutti coloro che magari possono trovarsi in una situazione simile a quella in cui si sono trovate appunto le persone che hanno poi beneficiato di questa sentenza. Insomma, tanta carne al fuoco anche questa mattina e come sempre anche microfoni aperti da parte di Salva Danaio a voi tutti per cercare di capire anche come orientarvi nella vostra situazione. Magari, insomma, raccontateci cosa state facendo con il vostro mutuo, che cosa avete intenzione di fare. Vedo già molti messaggi, c'è un ascoltatore, partirei subito con questo prima di entrare nel merito dei due temi che abbiamo scelto. Questa mattina sono andati in banca per lamentare che la rata che mi è arrivata da pagare in un periodo di diminuzione dei tassi di interesse è passata invece da 930 a 960 euro. Questo è Albert da Piombino. Chiedo per quale motivo, non mi viene data una risposta. È giusto quello che mi sta capitando? Usa un linguaggio un po' più colorito, anche Albert un po' arrabbiato. Roberto Anedda, direttore marketing Mutui Online, ben trovato. Ben ritrovati, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Cosa può essere successa ad Albert? Insomma, adesso noi continuiamo ad enfatizzare molto questa discesa dell'Euribor, questa discesa dei tassi, però ricordiamoci che è una tendenza in atto da un mese. Sì, esatto. In realtà i tassi hanno cominciato a scendere da non più di un mese e quindi è possibile, nel caso di Albert, che peraltro ha tutte le ragioni di chiedere che gli venga data risposta, che la sua rata, o meglio il tasso del suo mutuo, ancora non sia stato adeguato, perché ogni banca non adegua automaticamente i tassi, ma ha delle scadenze prefissate che possono essere verificate in contratto. Quindi molte banche, ad esempio, aggiornano il tasso mensilmente, ma prendendo magari l'ultimo giorno del mese precedente o dei due o del mese ancora prima, o facendo una media dell'ultimo periodo. Quindi, dato che la tendenza al calo dell'Euribor è fortunatamente continua da più di un mese, ma effettivamente è solo un mese, è possibile che anche l'ultima rata che Albert si sia visto recapitare dalla banca risenta ancora di un precedente. Dei picchi massimi, esatto, diciamo. Precedente rialzo dei tassi, perché fino agli inizi di ottobre i tassi hanno continuato a salire e quindi solo dalla prossima rata veda un eventuale calo. Però è giusto che verifichi innanzitutto sul contratto e poi anche come con la sua viene banca parametrata la, come la sua successivamente rata. Continuerà la rata ad adeguarsi ai tassi. Quindi Albert, faccia una cosa, veda la rata del prossimo mese e qualora non i conti non le tornino si faccia sentire magari con noi, cercheremo di capire un po' meglio la sua situazione. Tra l'altro, a proposito di Euribor, quello a tre mesi, che abbiamo capito settimana scorsa non è poi quello davvero più diffuso per quanto riguarda l'indicizzazione dei mutui a tasso variabile, ma in ogni caso anche stamattina è stato fissato al livello più basso da fine luglio 2007 al 4,24%, per cui continua questa tendenza che Roberto Anedda ci indicava di calo dei tassi, per cui piano piano vedrete che qualche beneficio le nostre rate lo manifesteranno. Non abbiamo fatto la borsa, andiamo subito a vedere che cosa succede. Succede che oggi c'è di nuovo la massima volatilità sui mercati finanziari. Abbiamo Londra in calo dell'1,75%, Francoforte meno 1,20%, Parigi meno 1 punto. Oggi sono arrivate cattive notizie dalla dalla Germania, dove l'Istituto di Statistica ha certificato la recessione tecnica. Il PIL del terzo trimestre è sceso dello 0,5%. Abbiamo il petrolio che sta scendendo e a $50 al barile a Londra, 54 a New York, quindi anche questa è una buona notizia che si riflette sull'inflazione e anche in questo caso speriamo sui tassi. Piazza Affari meno 0,5% sull'S&P MIB, la miglior piazza d'Europa per fortuna, MIB del meno 0,90, e tra l'altro abbiamo delle crescite oggi sui titoli del settore bancario. Nella prima parte della mattinata questi rimbalzi erano un po' più consistenti, soprattutto quello di Intesa San Paolo, che negli ultimi due giorni è stata protagonista di veri crolli. Dopo la trimestrale, oggi Intesa, miglior titolo, guadagna il 2%, Banco Popolare più 1,34%, Impregilo più 0,8%, Unicredito più 0,80%, il titolo ha perso i 2 euro e non riesce a recuperarli, ma in ogni caso abbastanza positivo questa mattina. In difficoltà invece STM e Buzzi Unicem, perdono 5 punti, Autogrill meno 4,57%, Luxottica meno 4,35%. Questi i temi del giorno. Tra l'altro dal Regno Unito abbiamo una brutta notizia che riguarda British Telecom, come che ha annunciato che taglierà 10.000 posti di lavoro entro la fine di marzo 2009. Insomma, le ristrutturazioni aziendali a questo punto vanno avanti intensificandosi sempre di più e abbiamo già capito come il 2009 sarà un anno piuttosto difficile per noi tutti. Andiamo però a lasciare la borsa per entrare nel merito delle novità riguardanti i mutui. Non è che ce ne siano, c'è soprattutto questa sentenza da Bari da commentare questa mattina. Prima di sentire la nostra scheda però saluto Gianni Colangelo, rappresentante italiano al Financial Service Consumer Group. Colangelo, buongiorno. Buongiorno. Sulla questione del piano di ammortamento alla francese, Colangelo lotta un po' da un po' di anni in sede europea, ci aiuterà ad interpretare meglio questa sentenza e quali ragionevoli aspettative, bene che i sottoscrittori italiani di mutui abbiano grazie anche a questa sentenza. Insomma, non cantiamo poi una vittoria che forse non è neanche ragionevole tanto cantare. Detto questo, il riassunto della nostra scheda. Il taglio dei tassi c'è stato, anche se la BCE si è fermata al 3,25%, deludendo le speranze di molti. Jean-Claude Trichet, presidente della Banca Centrale Europea, ha però menzionato la possibilità di ulteriori riduzioni dei tassi per la fine dell'anno. Intanto il tasso Euribor cala e molte famiglie italiane in difficoltà con rate del mutuo diventate insostenibili tirano finalmente un sospiro di sollievo. Ma il settore dei mutui, da 2 anni in totale fermento, continua a produrre novità su novità. Nel frattempo è stato parzialmente accolto il suggerimento avanzato da mesi da alcune associazioni dei consumatori di svincolare i mutui dal tasso Euribor, tasso al quale sono indicizzati la maggior parte dei finanziamenti per la casa, e legarli al tasso di riferimento BCE. La differenza tra quest'ultimo e l'Euribor, infatti, negli ultimi anni è passata dallo 0,25% all'1,28%. Un peso sempre più difficile da sostenere per 3,2 milioni di famiglie indebitate a tasso variabile. L'invito, proprio settimana scorsa, è stato già raccolto dal gruppo BPM, che ha lanciato l'Euro Mutuo, agganciato al tasso di interesse ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea e non più al tasso interbancario. Intanto, mentre molte famiglie sono alle prese con il dilemma se aderire o meno alla rinegoziazione proposta nell'ambito della convenzione ABI Ministero dell'Economia, il termine ultimo per l'adesione fissato per la fine di novembre, un altro colpo al caro rata lo ha messo a segno il Tribunale di Bari con una sentenza che Adusbef ha definito epocale. Sotto accusa il piano di ammortamento cosiddetto alla francese, che prevede il rimborso del mutuo fortemente sbilanciato a favore della componente interessi nei primi anni di vita del finanziamento. La Adusbef, che ha assunto la difesa nel caso di Bari, ora ritiene la sentenza applicabile ad altri casi. In Italia la maggior parte dei contratti sarebbero basati sull'ammortamento alla francese e ha messo a disposizione sul proprio sito www.adusbef.it un modulo per l'eventuale richiesta di rimborso alla banca degli interessi percepiti secondo questa modalità. 800 24 0024, numero verde per i nostri ascoltatori. Prima di sentire Gianni Colangelo che ci aiuta ad interpretare meglio questa sentenza, volevo sentire Roberto Anedda. Settimana scorsa abbiamo precisato che non è vero che tutti i mutui a tasso variabile sono indicizzati all'Euribor a 3 mesi, è però vero che praticamente tutti i mutui hanno il piano di ammortamento alla francese. Sì, tra l'altro non solo in Italia, perché appunto non è un caso limite, ma in tutto il mondo si usa il piano di ammortamento alla francese. Che è esattamente assolutamente, ecco, magari spieghiamolo, perché poi ovviamente magari uno si guarda il proprio contratto di mutuo, vede anche questa cosa e dice: ma come sarebbe a dire, perché non ho un piano di ammortamento all'italiana, chissà, forse che non sia meglio quello alla francese, ovviamente. Sì, diciamo che in generale cos'è un piano di ammortamento? Un piano di ammortamento è un metodo finanziario che permette di rateizzare, quindi rendere periodico il rimborso di un finanziamento. Quindi se io ricevo un finanziamento di qualunque tipo, quindi non solo un mutuo ma anche il credito al consumo ad esempio, invece che dover restituire tutto alla fine, mi viene data la possibilità di restituire rata per rata, e ovviamente ognuna di queste rate mi permette di rimborsare una parte del capitale che io ho avuto in prestito, ma anche una parte degli interessi. I diversi tipi di ammortamento fanno diversi calcoli, per cui ad esempio c'è anche l'ammortamento all'italiana, che ha un ammortamento nel quale ogni periodo ha una quota di capitale costante, cioè nelle mie rate c'è sempre la stessa quota di capitale che viene restituita, ovviamente quello che cambierà sarà solo la quota interessi, quindi nel caso di ammortamento all'italiana ho delle rate più elevate all'inizio e che man mano vanno a scendere. L'ammortamento alla francese è invece un metodo di calcolo che permette di avere, ovviamente partendo dal tasso iniziale, ipotizzando che quindi questo non cambi, una rata sempre uguale come valore, quindi io posso pianificarmi come se fosse un tasso fisso ad esempio, sempre una determinata uscita di cassa per il pagamento della mia rata, però la sua composizione è differente. Cambia la composizione perché invece nelle prime rate, come dicevate all'inizio, c'è una maggiore componente di interessi e viceversa il capitale più basso. Ogni rata che passa io pago una parte di capitale leggermente superiore a quella precedente e viceversa si riduce la componente di interessi, a meno che ovviamente non si tratti di un tasso variabile, i tassi salgano, allora in questo caso anche gli interessi, ma come in qualunque mutuo e qualunque ammortamento, subirebbero una variazione. Quindi in realtà con ogni rata io pago gli interessi legati a quella rata e a quella quota capitale e non c'è, come la sentenza, forse facendo un po' di confusione, ha indicato un anatocismo, cioè il pagamento di interessi su interessi. L'anatocismo si avrebbe nel caso in cui io smettessi di pagare le rate e quindi nel momento in cui sono in ritardo con delle rate, dato che quelle rate che non ho pagato avevano una parte di capitale ma anche una parte di interessi, su quegli interessi maturerei ulteriori interessi che sono quelli dovuti per il ritardo di pagamento. Questo era il rischio di anatocismo, ma che peraltro è stato poi regolamentato anche da una delibera del CICR, del Comitato Interministeriale Prezzi del 2000, quindi da questo punto di vista purtroppo si può contestare poco. Il problema della sentenza era invece sul fatto che questi contratti di mutuo, che erano mutui di 20 anni fa, quindi quando purtroppo non c'erano regolamentazioni chiare sulla trasparenza bancaria, che adesso fortunatamente ci sono, proprio grazie anche alle associazioni dei consumatori, non era obbligatorio esplicitare il cosiddetto tasso nominale, cioè quello che si usa per calcolare il piano di ammortamento, ed anche quello effettivo, cioè quello che risulta poi da questa periodicità di rimborso, che come ormai vediamo, ormai da anni continuiamo a ripetere: attenzione, non guardate solo il tasso nominale ma anche il tasso effettivo, perché è quello che, oltre a tener conto di eventuali ulteriori spese che il mutuo può comprendere, è quello che vi dà l'indicazione di quanto effettivamente il mutuo costi, ed è quello che serve comunque per dare un'indicazione. Questi mutui così vecchi non avevano questa indicazione, quindi giustamente è stato ribadito che non si doveva considerare dovuto l'extra cifra di interessi legati proprio a questa differenza. Però ecco, io ridurrei la cosa in questi termini, nel senso che se uno ha un contratto che non esplicita, quindi non ci sono immagini, secondo lei, affinché si crei un precedente in base al quale poi tutti noi che abbiamo mutui di questo tipo possiamo andare a rivendicare una restituzione appunto degli interessi non correttamente percepiti sulla base da parte della banca. Sulla sentenza no, si rischia appunto di che la banca possa facilmente difendersi proprio per il fatto che non c'è un vero e proprio anatocismo nel meccanismo di per sé, e le stesse delibere CICR, ma gli stessi articoli del codice civile parlano di anatocismo vietato in caso di rate in ritardo di pagamento. Quindi insomma, Gianni Colangelo, siamo a lei, eccoci qua. Oltre a fare il volontario per l'Adusbef, diciamo che in un contesto come quello di questa mattina in realtà lo abbiamo interpellato, perché con Gianni Colangelo in altre puntate di Salvadanai abbiamo proprio lo abbiamo coinvolto altre volte per spiegare come funziona il piano di ammortamento alla francese, la questione del tasso di interesse è composto, e a questo punto arrivo alla sentenza di Bari. Colangelo, ha ragione Roberto Roberto Anedda quando dice che ha ragione, sì, perché poi la sentenza dice questo, è un caso ovviamente di tanti anni fa che arriva adesso a conclusione al tribunale di Bari. Ma tanti anni, dunque, il divieto di analotocismo risale al 1942, quindi questo fatto non rileva. La sentenza in realtà dice, siccome il piano di ammortamento della francese è frutto dell'applicazione di un interesse composto, allora il tasso indeterminato si applica il tasso legale. Questo è quello che dice la sentenza. Io mi trovo d'accordo solo con una parte della sentenza, quella in cui si fa rilevare che effettivamente il piano di ammortamento, tutti i piani di ammortamento sono fatti a interesse composto. Cioè il piano di ammortamento, io distinguerei poi piano di ammortamento da piano di rimborso. Allora, il piano di rimborso è quello che è il numero delle rate e l'entità delle rate che rimborsa una determinata somma prestata con una certa cadenza temporale. Il piano di ammortamento invece serve a distinguere la quota capitale dalla quota degli interessi che ogni singola rata rimborsa o paga. Quindi il piano di ammortamento alla francese calcola la rata, e quello è la cosa importante, calcola la rata di interesse composto. E questo basta aprire qualsiasi testo di matematica finanziaria per capirlo, perché i piani di ammortamenti vengono spiegati sotto il capitolo più generale dedicato alle rendite o all'interesse composto. Questo ripeto, ecco, per questo l'abbiamo capito. Ecco, ma tornando a questa sentenza di Bari, che qualcuno, lei lo sa bene, ha cavalcato come a questo punto possibilità per molti di noi di andare adesso a rivendicare alla banca la restituzione di interessi percepiti in maniera non corretta. Ecco, è corretta adesso questa interpretazione? Allora, secondo la mia opinione, visto che ho scritto anche un testo che mi sembra sia stato un po' ripreso da questa sentenza, secondo la mia interpretazione della sentenza, se noi diciamo che il piano di ammortamento è frutto dell'interesse composto, come la sentenza dice, per il principio della conservazione del contratto non si può affermare che lo stesso contratto, la partizione è nulla, ma ci si deve riportare al tasso numericamente espresso. In quel caso mi sembra che fosse intorno al 13%. Quindi la portata generale di questa sentenza, che esprime il divieto di anatocismo, è semplicemente questa, cioè siccome i mutui, tutti i mutui, e questo non è importante che tutti lo facciano, perché se tutti lo fanno non significa che sia legale, però tutti i mutui sono fatti a interesse composto. Quindi quello che si può richiedere ragionevolmente è semplicemente il rimborso dell'incidenza della composizione degli interessi o anatocismo. Faccio un esempio numerico, due esempi numerici. Molto rapidi, per far capire. Se noi abbiamo un mutuo di 100.000 euro regolato al 5% fisso e rimborsato in 60 rate, bene, la differenza, quindi sono 30 anni, la differenza tra interesse semplice e interesse composto sono 27.720 euro. Se invece noi abbiamo un mutuo di 100.000 euro rimborsato con 30 rate semestrali, quindi 15 anni, sempre al 5%, la differenza tra interesse composto e interesse semplice, quindi la somma eventualmente da richiedere indietro nel momento in cui si è finito di pagare il mutuo, è di 7.440. Cioè, è naturalmente una cifra inferiore, tanto inferiore la durata del mutuo, è chiaro che è più ampia rispetto, certo, se il piano di ammortamento certo, è più ampio. Per la naturale. Dinamica proprio della composizione degli interessi. Però, Colangelo, io quello che voglio arrivare a capire, perché poi entrare nel merito del giuridichese per noi è veramente un dramma ogni giorno, e non vogliamo generare ulteriore confusione da parte per i nostri ascoltatori, che già tra le surroghe, la portabilità, la sostituzione e la convenzione ABI Ministero dell'Economia non ci capisce più niente, l'ascoltatore medio intendo. Lei si sente di poter dire che a questo punto, scaricando il modulo dal sito dell'ADUSBEF, è una pratica suggeribile adesso quella di andare a rivendicare alla banca quanto è stato percepito secondo questo principio del piano di ammortamento alla francese l'interesse composto, parlandoci molto onestamente? Dunque, nei limiti che io ho specificato, sì, però bisogna capire e avere bene in mente che innanzitutto il mutuo costituisce un titolo esecutivo da parte della banca, per cui se si fa una causa e si ha un mutuo in corso, il mutuo bisogna seguitarlo a pagare, e una causa comporta... Ecco, no, questo che voglio far capire, si deve aprire, cioè non è corretto dire che si va con questo mutuo in banca, ecco, si apre il contenzioso, cioè chiariamo anche questo aspetto, che poi che ci porti ad aver ragione è un altro discorso. Eccoci di nuovo insieme a Salva Danaio. Io sto notando una cosa, che per la verità gli ascoltatori si sono molto poco appassionati alla sentenza del Tribunale di Bari, anche perché riuscire a spiegarla è assolutamente arduo per noi, con tutto rispetto ovviamente per gli ospiti di questa mattina di Salva Danaio. Allora, adesso io per un attimo tornerei sul seminato regolare di Salva Danaio e i mutui per cercare di capire qual è l'orientamento delle famiglie italiane alle prese con la rinegoziazione e con il caro rata. Dobbiamo anche raccontare che entro la fine del mese scadono i termini, per chi lo vuole, dell'adesione alla convenzione ABI Ministero dell'Economia, per cui andiamo a sentire adesso gli interrogativi dei nostri amici che ci seguono da casa. 800240024. Partiamo con Massimiliano da Prato. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno a lei, dottoressa. Mi scusi se la disturbo la seconda volta ormai, per sempre per il discorso dei mutui. Ah, perché? Mi ha già disturbato un'altra volta, non me lo ricordavo. Sì, anzi, guardi, la devo ringraziare, sono ospite per la seconda volta, mi avete veramente dato un consiglio molto valido e sono contento, insomma. Però ecco, volevo porle questo quesito, perché poi con il vostro aiuto mi sono accorto che probabilmente c'è veramente questa faziosità da parte delle banche, diciamo, perché ormai diciamo l'arancia è spremuta, insomma, c'è rimasta solo la buccia, per cui dico, è inutile che piangano un po' sul latte versato. Dico questo, c'è anche dei rappresentanti, credo appunto dell'ABI, insomma, diciamo che possono anche aiutarmi a questo. Io sono un po', in confusione, ma vi dico quello che mi è successo. Allora, io ho rinegoziato il mio mutuo con la mia banca e ho chiesto un abbassamento dello spread tramite legge Bersani e non la Tremonti. Quindi la banca mi ha proposto sì un abbassamento dello 0,50 di spread, però addirittura il funzionario che mi ha fatto questa cosa e che io ho seguito grazie al vostro consiglio, ho aderito a questa cosa, mi ha detto, dice, guarda Massimiliano, qui c'è questo discorso, hai fatto un mutuo che nei primi anni hai pagato tanti interessi e poco capitale. Quindi era il piano di ammortamento alla francese sul quale abbiamo speso tante parole nella prima parte di Salva Danaio. Però, sì. Però dottoressa, cosa è successo? Loro mi hanno fatto sì la rinegoziazione con uno spread inferiore, cioè abbassando lo spread dello 0,50, quindi molto buono. E il dottore, certo, che mezzo lei, punto. Quando telefonai mi disse sì, va sfruttata perché è una buona occasione. Ma però mi sono accorto, grazie alla vostra informazione e grazie a tutte le cose, sono andati a controllare, che mi hanno fatto un mutuo al tasso all'italiana. E quindi qui si vede la malafede totale, perché loro mi hanno fatto, io pagavo una rata semestrale di 4.700 per dire euro, no? Sì. Mentre con questa nuova rinegoziazione la pago di 4.150. Bene. Però cosa succede? I 4.150, dottoressa, saranno fissi per i prossimi 10 anni che mi manca. Fissi, cioè nel senso a tasso sì variabile, però non alla francese, e quindi voglio dire, io pagherò 4.150 oggi come nel 2000 non so quando mi finirà il mutuo. Sì, ma l'importante è capire come è composta questa rata al suo interno, perché non cambia, se lei è comunque ha mantenuto un tasso variabile, Massimiliano, o ha praticamente fatto una... Grazie al vostro intervento con voi ho preteso il tasso variabile, quindi avrò, grazie a voi, ripeto, dei benefici, perché l'Euribor sta abbassando, ma i tassi stanno abbassando. Ma dico io, la malafede della banca, dottoressa, è lì dove prima me l'hanno fatto alla francese, mi hanno spudorato, scusi il termine, a Prato si dice così, però un sacco di soldi, di interessi passivi. Poi quando sono andata a rifarlo, cosa mi hanno fatto? Sì, mi si abbassa la rata semestrale di 600 euro, ma in realtà però non ho l'abbassamento del mutuo alla francese, e quindi la rata, essendo costante, dottoressa, io alla fine, pur pagando 1.200 euro in meno ogni anno, pagherò circa 2.000 euro in più di capitale di fronte all'altro. Qui però ci capita un po' come ci è successo la settimana scorsa, Massimiliano, sembra proprio che li stiamo scegliendo scientificamente i casi più assurdi nel rapporto con la banca. Roberto Anedda, cosa può essere successo qua? Allora, a parte se ha chiesto una semplice rinegoziazione dello spread e gli è stata concordata una variazione addirittura della condizione basilare del mutuo, mi sembra Sì, esatto, perché a meno che non, poi la banca per iscritto non abbia messo che il mutuo da variabile normale, diciamo così, si trasformasse in una sorta di rata costante, perché questo è quello che sembra di capire. Qui non è tanto legato all'ammortamento alla francese, che di per sé, fino a che non cambiano i tassi, tiene effettivamente la rata sempre uguale, quindi potrebbe essere anche sempre ammortamento alla francese, né tantomeno all'italiana, perché se fosse all'italiana, dicevamo prima, avremmo sempre la stessa quota di capitale e quello che vale invece è la quota interessi, quindi comunque le rate non potrebbero essere uguali. Sembra di capire che la banca abbia trasformato in qualche maniera. In realtà sarebbe vantaggioso la trasformazione all'italiana in un caso come questo? Complessivamente può generare un po' meno interessi. Il problema è che ha delle rate iniziali molto più alte che tendono poi dopo ad abbassarsi, quindi uno deve valutare se preferisce pagare un po' di più prima e un po' meno dopo. Con tutta una serie di calcoli un pochino complicati. In questo caso qui bisognerebbe capire se effettivamente da contratto il nuovo mutuo, così come rinegoziato, risulta a rata costante, perché se fosse a rata costante dovrebbe allora essere anche a durata variabile, altrimenti diventa un tasso fisso. Se mi viene detto di pagare sempre la stessa rata semestre dopo semestre senza possibilità che cambi, cioè dove rimane a questo punto il tasso variabile? Cioè io consiglierei a Massimiliano di farsi spiegare in maniera più dettagliata e chiara dalla banca come questo mutuo sia stato modificato e a questo punto come intervengano sulle sue rate successive le eventuali variazioni dei tassi di interesse, perché ripeto, se è un tasso variabile da qualche parte Massimiliano nel momento in cui i tassi continuino a scendere dovrà pur averne un vantaggio, e ovviamente se in futuro i tassi dovessero risalire avrà anche degli interessi in più da pagare, però che una rata rimanga così costante mi sembra abbastanza genera qualche dubbio anche a noi. Massimiliano, se ha tempo ci scriva, magari valuteremo un po' meglio questa situazione. Ha chiamato due volte, può chiamare una terza, oppure una terza, che sì, chissà che cosa scopriremo insomma nella prossima telefonata. Nicola da Milano, benvenuto anche a lei. Buongiorno, intanto grazie molto per avermi richiamato. Grazie a lei per aver chiamato, Nicola. Sì. Siete davvero gentili, siete voi che ci aprite un pochino gli occhi a noi comuni mortali. Ma qua ci pare di non risolvere mai niente, Nicola, non lo so, ogni giorno scopriamo un rivolo problematico diverso. No, comunque non è vero, tante cose sono sempre state fatte. Mi accorgo che le problematiche non finiscono mai. La mia domanda era questa: io ho aperto un mutuo 3 anni fa, a tasso variabile, Euribor a 6 mesi, ho subito in pratica tutti gli aumenti di questo anno e mezzo che ci sono stati, sì, con un aumento man mano della rata di più o meno 30 euro. Adesso che si è abbassato di circa un punto in percentuale, perché da 6 mesi fa a dicembre sarà almeno un punto di percentuale che si è abbassato, noterò la stessa differenza per quanto riguarda la diminuzione della rata, oppure in aumento fanno quello che vogliono in diminuzione? Come il prezzo della benzina, Nicola. Più o meno come il prezzo della benzina o come le assicurazioni. Se fa un incidente la raddoppia, allora, se non ne fa paga uguale. No, Nicola, allora adesso a parte tutto sentiamo un po', Roberto Anedda mi chiedevi Roberto, no, mentre sentivamo Nicola, no, mi sono sbagliata, no. Mi hai fatto un cenno evidentemente. Allora, un mutuo stipulato 3 anni fa, l'Euribor a 6 mesi, lui dice insomma la progressione con cui ho subito gli aumenti sarà la stessa progressione con cui, di cui beneficerò per quello che riguarda la riduzione della rata? Diciamo che purtroppo non sappiamo quale sarà la tempistica del calo dell'Euribor. Quando la rata verrà agganciata a quale Euribor, di che data, certo, magari potrà esatto, essere... Esatto, torniamo un po' alla risposta che abbiamo dato ad Albert di Piombino all'inizio della trasmissione. Ogni mutuo e ogni banca definisce una determinata data nella quale il tasso si aggiorna, e quindi in questo caso l'Euribor a 6 mesi di Nicola, e quindi sicuramente lui man mano vedrà che via via che l'Euribor scende anche la sua rata scenderà. Ovviamente questa progressione al ribasso potrebbe essere diversa rispetto a quella che lui ha avuto, soprattutto nell'ultimo anno, in rialzo, semplicemente perché l'Euribor potrebbe essere più lento, quindi non tanto perché la banca non lo adegue, ma proprio perché il mercato fa riportare così i tassi verso il basso in maniera un pochino più lenta. Infatti abbiamo visto la BCE ha tagliato i tassi addirittura di un punto. Come dice giustamente Nicola, l'Euribor è effettivamente sceso anche di oltre un punto. Dai massimi di inizio ottobre siamo a oltre 1,30 in meno, quindi sono veramente tanti soldi, cioè sono 80 o 90 euro al mese per un mutuo da 100.000 euro. Quelli a 3 a 6 mesi sono scesi leggermente meno, intorno comunque all'1,15, quindi più dell'1%, e il fatto che ci sia ancora parecchio margine di recupero con la BCE lascia sperare che questa progressione continui. È difficile dire con quali tempistiche e se con la stessa velocità con la quale i tassi sono prima saliti, però ecco, sull'adeguamento da parte della banca del tasso e quindi della rata del mutuo, tranquillizzerei Nicola, nel senso che quella rimane sempre la stessa, per cui alle stesse determinate cadenze la banca aggiornerà anche al ribasso il tasso del mutuo. Franco da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Io facevo questa osservazione. L'inconveniente del metodo progressivo francese è data dal fatto che nella prima metà del periodo del piano di ammortamento la rata è quasi tutta, soprattutto all'inizio, è quasi tutta composta da interessi, infatti. Cosa succede? Che dopo due anni che abbiamo pagato, Franco, scopriamo che praticamente abbiamo rimborsato quasi niente capitale. Esatto. Questo fenomeno, diciamo, crea, soprattutto nel caso di insolvenza temporanea o definitiva del mutuatario, crea sotto un certo profilo un indebito arricchimento della banca, perché la banca che cosa fa? Risolve il contratto, mette all'asta l'immobile, lo vende, lo rivende, e il cliente si trova ad aver pagato un sacco di soldi senza praticamente una quota, sì, se non modestissima, di rimborso di capitale. Sì, Franco, il principio è giusto, quello che definisce lei. Il problema è capire se l'obiettivo anche della erogazione di un mutuo verso un cliente sia solamente quello di rilevargli la casa dopo due anni che paga. Insomma, in genere una banca penso che lo faccia anche perché non è che ha poi interesse ad attivarsi subito con la vertenza legale per rientrare in possesso della casa. Sono soldi anche per le banche quelle. Comunque sì, ho capito la sua osservazione. Gianni Colangelo, non mi sono dimenticata di lei, abbiamo cercato di dar spazio. No, nel senso che Franco ha sicuramente ragione, credo che poi tra l'altro lei abbia particolarmente a cuore proprio la questione eventualmente dei pignoramenti e del rientro. Allora, precisando che ciascun mutuo, bisogna esaminarlo singolarmente perché ciascun mutuo può avere delle patologie, rispondendo anche un po' in controcanto alle persone che hanno chiamato prima. Bene, l'interesse composto è un interesse esponenziale e l'interesse semplice invece è un interesse che aumenta proporzionalmente, quindi lineare. Per cui è ovvio che quando poi si proietta su uno schema di ammortamento tipo francese, le discese delle rate in relazione ai movimenti dei tassi sono, diciamo, sproporzionate, perché il metodo composto, appunto la legge di interesse composto, è più che proporzionale, è esponenziale, e quindi determina prima di tutto una mancanza di trasparenza del contratto, perché fissiamo che è anche il nocciolo della questione, no, Colangelo, dobbiamo dirlo, cioè il tema è il mio mutuo funziona in questa maniera, io lo devo sapere, deve essere chiaro nel contratto che stipula all'inizio con la banca. Bisogna sapere anche che se questo contratto e questo mutuo e questo piano di ammortamento è conforme alle leggi o meno, perché c'è un principio generale di trasparenza, poi c'è un principio generale sempre di origine europea di equilibrio contrattuale, per cui se si stabilisce uno squilibrio a danno del consumatore, questo ciò è vietato, per cui il fatto di pagare prima gli interessi non comporta solo la conseguenza che diceva il signore, ma comporta anche la difficoltà di cambiare di mutuo, perché ovviamente se io estingo prima il mio rapporto avrò pagato solo gli interessi e poco capitale e non mi conviene. Se lo estingo verso la fine e decido di cambiare, magari non mi conviene perché ho già pagato tutti gli interessi e mi rimane da pagare solo il capitale, per cui non trovo convenienza ugualmente a farlo perché non risparmio nulla a livello di interessi. Questo è contro la direttiva sulle clausole abusive, per esempio. Quindi queste patologie che esistono nel mutuo, nella struttura generale che viene proposta massivamente alla clientela, che non ha possibilità di scelta perché o questa minestra finestra, e questo dobbiamo dirlo chiaramente, che è assolutamente illegale. D'accordo, Colangelo. Comunque mi pare di capire che questa questione di Bari, non lo so che tipo di prospettive aprirà. A me al momento sembrano abbastanza limitate, perché poi non lo so, insomma, credo che poi ogni caso debba essere considerato ovviamente a sé, esattamente come è successo per l'impianto della sentenza che stabilisce una determinata cosa su una determinata situazione. Io per adesso accantonerei qua le conseguenze della sentenza di Bari, per tornare invece ai problemi pratici per questi ultimi minuti che ci rimangono a disposizione dei nostri ascoltatori. Abbiamo Claudio da Roma, buongiorno, visto che anche della convenzione ABI, Ministero dell'Economia, volevamo parlare, ci rimangono appena 3 minuti di tempo per farlo, ma sicuramente qualche indicazione riusciamo a darla. Claudio, benvenuto. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Senta, io volevo sapere un'informazione. Io non ho avuto da parte della mia banca nessuna comunicazione per quanto riguarda la possibilità di passare, diciamo, di avere questa rinegoziazione Tremonti. E so, apprendo adesso che questa cosa scade il 30 novembre di questo mese, insomma. Quindi volevo sapere. Lei in realtà la comunicazione avrebbe dovuto riceverla a fine agosto, poi da lì in avanti. Guardi, gli utenti. Sicuro che io ho ricevuto tutte le comunicazioni relative agli aumenti, quando aumentava il tasso Euribor, immediatamente mi arrivava la comunicazione della Unicredit che mi diceva adesso il suo tasso. È questo, quindi pagherà, mi facevano un ricalcolo appunto della rata, sì. Però non ho avuto nessuna comunicazione per quanto riguarda questa possibilità. Quando ha sottoscritto il mutuo, Claudio, lei? Io nel 2004, quindi ci rientra a tasso variabile, dicembre 2004. Quindi avrebbe dovuto riceverla, non so, a meno che non si sia smarrita la lettera. Claudio, lei magari, in virtù del fatto che noi abbiamo cercato di fare la massima informazione possibile su questa cosa, così come è comparsa su tutti i giornali, non si è incuriosito, non ha chiesto in banca per capire come mai non avessero inviata, perché voglio dire, parla della più grande banca italiana, poi ci avrà pure delle difficoltà, però ha informato tutti quanti di questa circostanza. Lei non ha chiesto? Passato Unicredit, sì. No, non ho avuto questa cosa. Comunque, perché non no, ma lei dico, non ha chiesto direttamente, cioè non si è posto il problema ad un certo punto che a lei non arrivasse questa comunicazione? No, veramente quasi questa cosa è avvenuta perché non sapevo di questa scadenza. La scadenza in realtà era fine agosto. Roberto Anedda. Sì, fine agosto per l'invio delle lettere, quindi poi 3 mesi di tempo per il cliente, quindi diciamo fine novembre, per eventualmente aderire. Effettivamente è strano, sicuramente c'è stato qualche disguido nei recapiti postali, perché Unicredit è stata una delle prime che ha preparato anche, sì, insomma, delle lettere anche abbastanza corpose, di 14-15 pagine, con fior di calcoli terroristici, perché poi nel senso che i tassi erano molto elevati, quindi praticamente per i mutui molto lunghi veniva fuori quasi un mutuo al raddoppio. Il consiglio può essere quello sicuramente di provare a chiedere alla banca, che come minimo recupererà la copia della lettera o rifarà l'elaborazione, tra l'altro aggiornandola ai tassi di adesso, perché vedere quella di fine agosto effettivamente ha meno senso. Poi ribadiamo in generale quello che abbiamo più detto volte sulla rinegoziazione: se non si è proprio già in difficoltà, per cui si è in ritardo con i pagamenti delle rate, rischia di essere un'ulteriore incertezza, perché non si sa poi quanto tempo ci vorrà per rimborsare il mutuo, piuttosto che un sollievo. Meglio piuttosto, se si ha un mutuo pesante, cercare un'alternativa appunto di surroga con un tasso fisso, comunque un mutuo più conveniente rispetto al proprio. Insomma, come mi capita per molte puntate, in genere non per i mutui, questa mattina sono uscita un po' a pezzi con la questione del tasso composto e il piano di ammortamento alla francese. Questione complicata, anche con questa abbiamo a che fare quando rimborsiamo la rata del nostro mutuo. In ogni caso io ringrazio Roberto Anedda, Gianni Colangelo per essere stati con noi. Grazie a Gaia Romani, Valeria Coffaro, collaboratrici di Salvadanaio, appunto, per la mia trasmissione, per la trasmissione di Radio 24. Grazie a Peter Bescapè per la collaborazione tecnica. Salvadanaio termina qua, noi ci sentiamo domani. Probabilmente le nostre battaglie sui mutui le continueremo anche nelle prossime settimane. Per adesso buona giornata a tutti.